Guai a quelli che promulgano decreti iniqui e nel redigere mettono per iscritto l'oppressione per privare i miseri della giustizia e derubare il diritto dei poveri del mio popolo, sì che le vedove diventino loro preda e spoglino gli orfani. Che farete nel giorno del castigo, quando la rovina arriverà da lontano? Presso chi fuggirete per avere aiuto e dove lascerete la vostra ricchezza? Non rimarrà che curvarsi fra i prigionieri e cadere sotto gli uccisi. Malgrado ciò, l'ira del Signore non scema e la sua mano è ancora tesa. Guai alla Siria, bastone del mio furore e verga del mio sdegno. La inviavo contro una nazione empia. Le davo ordini contro il popolo del mio furore per spogliarlo, predarlo e calpestarlo come fango di strada. Ma essa non pensava così, ed il suo cuore non giudicava così. Ma in cuore suo si proponeva di distruggere e di annientare nazioni numerose. Infatti diceva: «I miei principi non sono tutti re? Non è stata forse Calne come Carchemis? Amat non è forse stata come Arpad? E Samaria non è stata forse come Damasco?» Come la mia mano ha raggiunto i regni degli idoli, le cui statue erano più numerose di quelle di Gerusalemme e di Samaria, certamente come ho fatto a Samaria e ai suoi idoli, così farò anche a Gerusalemme e ai suoi simulacri. E quando il Signore avrà terminato tutta la sua opera sul monte Sion in Gerusalemme, punirà il frutto dell'orgoglioso cuore del re di Assiria e l'alterigia dei suoi occhi alteri, poiché ha detto: «Ho agito con la forza della mia mano e con la mia sapienza, poiché sono intelligente. Ho rimosso i confini dei popoli, ho depredato le loro riserve e come un eroe ho fatto discendere gli assisi in trono. La mia mano ha raggiunto come un nido le ricchezze dei popoli. Come uno raccoglie le uova abbandonate, io ho raccolto la terra intera. E non ci fu nessuno ad agitare ali, ad aprire il becco e pigolare. Si gloria forse la scure contro colui che taglia con essa, o si inorgoglisce la sega contro chi la maneggia? Come se il bastone volesse brandire quelli che lo alzano e la verga sollevare ciò che non è di legno. Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà la consunzione nelle sue valide schiere, e nella sua gloria egli produrrà un incendio di fuoco. La luce di Israele diventerà un fuoco, ed il suo santo una fiamma, che brucerà e divorerà le sue spine ed i suoi pruni in un giorno. E la gloria della sua foresta e della sua vigna egli la consumerà dall'anima fino al corpo, e sarà come un ammalato che viene meno. I rimanenti alberi della sua foresta saranno poca cosa, ed un fanciullo li potrebbe contare. In quel giorno il resto di Israele ed i superstiti della casa di Giacobbe cesseranno di appoggiarsi sul loro percussore, ma si appoggeranno con lealtà sul Signore, il Santo d'Israele. Un resto ritornerà, il resto di Giacobbe, al Dio potente, poiché anche se il tuo popolo, Israele, è come la sabbia del mare, solo un resto tra esso ritornerà. È decretata la distruzione che farà traboccare la giustizia. Difatti il Signore, Dio degli eserciti, compirà la distruzione decretata in mezzo a tutto il paese. Perciò così parla il Signore degli eserciti. O popolo mio che abiti in Sion, non temere l'Assiria che ti percuote con la verga e solleva il suo bastone contro di te alla maniera dell'Egitto, perché ancora un breve tempo ed il furore li consumerà, la mia ira li annienterà. Il Signore degli eserciti susciterà contro di lui il flagello, come quando percosse Madian presso la rupe di Oreb. Stenderà la sua verga sul mare e l'alzerà come fece in Egitto. In quel giorno il suo fardello scomparirà dalla tua spalla, il suo giogo sarà rimosso dal tuo collo. Egli avanza dalle parti di Rimmon, è arrivato ad Ayat, ha attraversato Magron, a Micmas ha deposto i suoi arnesi. Hanno varcato il passo, in Geba si accampano. Rama è atterrita, Gaba di Saul prende la fuga. Strilla con la tua voce, Bat Gallim. Fa attenzione, Laisa, povera Anatot. Madmenà si è messa in fuga. Gli abitanti di Gebim cercano rifugio. Oggi stesso sarà a Nob per fare la sosta. Agiterà la sua mano contro il monte della figlia di Sion, contro la collina di Gerusalemme. Ecco, il Signore, Dio degli eserciti, abbatte i rami con veemenza. Le cime più alte sono recise, quelle elevate sono abbassate. Egli schianta il folto della foresta con l'ascia ed il Libano cade per mezzo del potente.